rock and roll anche Paolo. Beh, insomma, dai, prima di andare a un matrimonio, telefonare alla Rock FM alle 5 del mattino, ragazzi. Però non è altro che l'ennesima grande dimostrazione dell'affetto che c'è per questo progetto. Insomma. Senti, tra l'altro, la bella ragazza che girava per i nostri studi, vedo che adesso è dalla tua parte. Senti, può smetterla di parlare di questa bella ragazza che. Andiamo col prossimo pezzo, allora, via, dai. Stanno suonando le campane. Sono le campane dell'inferno, ma Rock FM ancora è qui. Giustamente qua ci si chiede, ma per chi suona la campana? Che musica, ragazzi. Questa è Rock FM, ancora per 13 ore. 14 in questo momento. Ah, ok. No, scusa, 12. Ah, ok. No, scusa, 12 e 58 secondi. Ti coglio. Caratteraccio. 335 100 7777, questo è il nostro numero di SMS, andate su rockfamily.it, c'è un urlo box a vostra disposizione, se siete dei temerari chiamateci allo 02 670 9132. Corna al cielo è fottuto il rock and roll, questa Rock FM, questi sono i Metallica. For Whom the Bell Tolls. Allora, abbiamo un po' di chiamate in attesa, nel frattempo che il nostro centralino e la nostra splendida Luciana, che ringraziamo, scusa, perdone, si organizza. Posso togliermi la soddisfazione? Sì. Un po' di chiamate che sono in attesa. Non ce la facevo, ragazzi. Sì. Senti, io direi, se siete d'accordo, di leggere un po' di sms. Ma l'hai chiamata, sì. Cla-cla? Sì, non sta rispondendo. È Mox che te l'ha consigliato. Allora, veramente, ci odia, ragazzi. Mi manca Mox, dov'è? Dov'è? Chiamiamolo. Mox sta dormendo a Lugano, ragazzi. Sì. A Lugano. Lui dorme a Lugano. Cantando Lugano addio, ovviamente, di Ivan Graziani. Arriva più tardi? Arriva, tornerà domani in giornata. Sì, fra poco, vuol dire? Sì, tra qualche ora. Allora, leggi, Edo, leggi tu, dai. Vai. Ciao ragazzi, mi dispiace non poter essere con voi, ma per motivi familiari, lavorativi, non riuscirò a essere presente. Mi dispiace, un saluto a Sechat. Poi andate avanti. Portate qui anche i vostri problemi, non è un problema. Edo, vai avanti. No, Edo è impegnato. No, Edo è impegnato. Leggete voi, ragazzi, siete vicini ai monitor. Ok, personalmente vi prometto che tramite la Family non vi lascerò mai soli. Vi chiedo però una promessa da parte vostra. Ragazzi, fate il possibile per tornare. Mi piacerebbe tanto sapere cosa vi passa per la mente. Questo è Sandro da Genova. Cosa ci passa per la mente? Per me, possiamo dirglielo? Posso dire cosa passa a me per la mente in questo istante? In questo momento a Max per la mente passa. Scusate, non ho resistito alla tentazione di far provare l'ebbrezza della pubblicità dell'Alka-Seltzer. Sì, ma il bello è che per prendere la bottiglia di vino, Max è passato con il braccio di fronte al monitor dove Maurizio stava cercando di leggere gli sms. E poi non riusciva a prendere la bottiglia. Dillo tu cosa ci passa per la mente. Mi state cacciando, ragazzi. A parte che sono felicissimo di essere al bar con il microfono davanti, al bar con gli amici col microfono davanti, che è bellissimo. E poi un'altra cosa rispetto a questa situazione. Vaffanculo! Ragazzi, se gentilmente ci portate via Edo e chiamate un altro. Per quale motivo la camicia di forza si è slacciata? Si è slacciata un attimo, di pazienza. Solo per far vedere i tatuaggi. No, in questo momento c'è un po' di confusione, che l'avrai notato. Anche psicologica, voglio dire, anche mentale. Metteremo insieme le cose molto presto, penseremo a progetti, e l'idea è quella di mettere in piedi qualche cosa, certamente qualcosa stiamo pensando, quindi. Però Giulio, no, vero, Giulio, lo vedo preparato sugli sms, vai Giulio. No, ma ne avevo visto uno che era molto interessante. Ah, eccolo qua, l'ho ritrovato. Buonanotte ragazzi, se sono quello. Grazie. Non l'ho toccato io. No, è sempre colpa tua. È sempre colpa tua. Okay. Allora, se sono quello che sono, lo devo anche a voi. Ho provato a chiamare, ma mi sa che ho sbagliato numero, perché mi ha risposto uno tutto rincoglionito. con questo cosa vuoi dire? Che abbiamo la responsabilità dei tuoi sbagli? Più che altro, ma come hai fatto ad avere il numero di Garavelli? Garavelli! Signori, abbiamo un ospite telefonico, il Borchia. Mr. Borchia. Che palle, però, sempre il Borchia. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, un par de palle. Com'è Borchia? Ma Borchia, ecco, dai, facci una solo. Hai sbagliato. Che ho la testa rintronata perché voi siete rock, io sono rock. Però perdonatemi, per dovere di cronaca è stato presentato come Borchia, ma per completare questo annuncio dovevamo dire Borchia del Maniscalco Maldestro. Esatto. Bravo, chi è questo mito? Sono sempre io, il tuo DJ preferito, Borchia. Max Dario. DJ. Il mio DJ preferito, sì, e non faccio nomi così non faccio torti a nessuno. Bravo. Borchia, ma cosa fai ancora sveglio? Ho capito che soffri di insonnia, ma Ma cosa faccio sveglio? Allora, ho fatto le prove fino alle 4. Poi sono venuto a casa, ho detto sentiamo un po' cosa fanno questi rocchettari accaniti, che sicuramente saranno svegli a festeggiare, perché voglio dire a festeggiare. È una 24 ore non stop, vedi tu. Questa 24 ore non stop. Non è che vendiamo il fumo, voglio dire. Mi sono connesso, almeno fino a domani. Sono connesso con la mia connessione che si impaccia ogni secondo, infatti si ferma, riparte. Tu ci hai scritto 78 ferma, messaggi, zitti. Non mi avete cagato, allora ho detto vabbè, chiamo Edo. Ah, Edo, guarda, fai conto. Era l'unico in questo momento che non si ascoltava. Accusavi noi di non cagarti, fai conto che mentre parlavi Edo si è levato la cuffia, esatto, si è stappato una birra, dimostrando tutto il suo interesse nei tuoi confronti, si è fatto una doccia, si è tagliato le unghie dei piedi, cioè di tenerlo amico, se tira un minimo, dai Edo, dai, cioè, no, è Borchia del Maniscalco Maldestro, ma lo facevo, ma non solo, è Borchia dei Rockpit. Edo, veramente un mondo di ingrati questo, caro Borchia. Scusa Borchia, perché stavo leggendo ancora gli sms, cercavo di chiamare qualche fanciulla, perché chiamano solo uomini, cosa vuoi che ti dica? Infatti Borchia, ci stai occupando la linea, guarda, ci sono milioni di ragazze che stanno chiamando. Che voce, proprio da Ariele quasi. È il suo obiettivo. Allora il premio Frigidaire questa sera lo assegniamo a Borchia del Maniscalco Maldestro, il nostro gruppo di riferimento per i prossimi 20 anni. Grazie Borchia, ci vediamo il 6 di giugno a Santo Stefano Macerata, provincia di Pisa. Perché non viene al Flog Borchia? No. Borchia, quando voi siete al Flog, purtroppo è a suonare da un'altra parte, a fare dell'altro rock and roll. Vabbè, sei chiamato per fare promozione bieca alle tue date. No, dillo. ho detto solo da un'altra parte. Sei troppo il migliore. Ragazzi, io vi auguro buon proseguimento di rock and roll, portate in fondo questa missione e vado a letto, ciao a tutti. Buonanotte Borchia. Grazie buonanotte. Borchia, e ancora grazie per la nottedo. God bless. Okay, ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Bene, sentiamo un disco? Beh, Edo, guarda, comandi tu. Che è? Allora, teniamo a precisare che questo non è il DJ Ariele con il suo kazoo. Anche perché il suo kazoo in questo momento è impegnato a fare altre cose. Che sta facendo il kazoo di Ariele? Adesso non possiamo mettere in piazza tutto, però Giulio, voglio dire. No, io sono curioso di natura. Questa è la musica. In ogni caso è la notte di Rock FM, l'ultima notte di Rock FM. Già. Quindi non è un funerale. Non è un funerale, è una fiesta. Già. Yeppa! I'm Francisco Vasquez Garcia, and welcome to our mania. We are singers and collection, we are fiesta and fire. We are the song of the Shoshona, we are brandy and half corona. And we are Nado and his aquarium, calamari and macaroni. Come all you rambling boys of pleasure, and ladies of easy leisure. We must say that your son too, we say I'm a real once again. Questi erano i Pogues, questa è una fiesta. Allora, pronto? Pronto! Chi sei? Sono Greg da Milano. Greg da Milano. Bella Greg. Grandi ragazzi. Ero sotto la radio fino a un quarto d'ora fa. Grande. Però adesso sono venuto a mangiare perché stavo svenendo. Ma ti sei asciugato un attimo? Sì, sì, mi sono asciugato e tutto. Dopo ci rivediamo, vero? C'è il master delle cuffie che è sparito, ho un mio problema. È un problema. Ah, ci vediamo domani pomeriggio, dai, non esageriamo. Domani siamo già oggi, eh? È vero, di anni. 5, però, se vieni qui domani e trovi una bella porta chiusa, qualcuno con la cravatta rosa e il doppio petto che ti dice sono andati via. Porca troia, dove no, cazzo ti dirà lì? Così. E sono andati via. Vedo vabbè, dai, con piacere che giusto. I colleghi hanno apprezzato la mia imitazione del nostro amministratore delegato che con il costume deve, da sirtacchio che deve essere con questa vocina guarda. Immagino qualcuno vabbè. L'ha visto cadere da un palco a Catania ma non non ne parleremo no sarebbe veramente il da pezzi zucchero, sarebbe un po' da pezzi di merda raccontare che abbiamo un amministratore delegato che cade dal palco del concerto di Gianni Nannini a Capodanno l'anno scorso a Catania no sarebbe veramente da pezzi di merda non raccontare. scusate vabbè. Vabbè, dai, dicevi mezzogiorno avanti. Quindi tra poche ore tu ti presenti a mezzogiorno cioè con gli spaghetti almeno esatto okay. No. A proposito come si pranza domani con quello che ci portano loro? Non penso beh, sì, direi okay, io ho portato perfetto. Le birre stasera per tutti quelli che erano sotto però guarda, stai parlando a tre persone a stemmi quindi grazie una battuta dietro l'altra Max oggi in forma ma più che altro Greg domani ti presenti così oggi, senza neanche o tra qualche ora sì. Senza neanche un regalo per i 50 anni di Garavelli no la birra no la birra no Garavelli non è un estimatore di birra cosa noi, potrebbe essere noi di birra ce l'avevamo però dillo. No ma cosa vuole quindi basta dire non si può dire in radio chi ha orecchie per intendere ok esatto chi ha orecchie per intendere direi chi ha orecchie per intendere Caramella direi che va è perfetto va bene cosa hai mangiato Greg ti prego fra due anni telefono a Rock FM e di che mi hai apprezzato un sacco va bene siete dei fenomeni ragazzi vi mancherete tantissimo ve lo giuro anche noi ci mancheremo grandi e ti va bene che non senti l'alito Greg vabbè non provate a immaginare il mio alle 5 se torni qua apriamo la finestra mi dico solo che sono in via Porpora a mangiare le pizzette allora arriviamo che posto è? Indicaci che posto è? All'inizio di via Porpora la prima a destra in via Porpora pizzette è pieno di nonnine in via Porpora ma mi sa che con la pioggia sono andate via tutte capito, va bene. Mannaggia sta pioggia. Mannaggia. Manda via ogni cosa. Ci ha rovinato la festa. Vabbè ragazzi, volevo ringraziarvi per questi splendidi 18 anni. Okay, grande Greg. Sì. Grande, salutaci Lillo ovviamente. Non so se avete notato, ma comincia ad albeggiare. Meno male. Comincia ad albeggiare. Grazie Greg. Continua a essere così serio, bravo, vai. Buonanotte. Ma può essere... Ah no. Attenzione perché abbiamo trovato Cla-Cla, eh? E meno male. Fai pronta? Gentlemen. Grazie Edo. From Genova, Liguria, Cla-Cla. C'è di buono che Edo in regia ci avvisa quando apre il microfono. Noi siamo qui a cazzeggiare. Ma è lei? No, è lei, sul serio? Ma noi ti mettiamo davvero in soggezione, Cla-Cla. Ciao. Ciao. Ciao. Già, già comincia a non rispondere alle domande. Capito. Cominciamo. No, vabbè, bene. Un po', ma non tantissimo. Però non rispondevi al telefono, eh? No, vabbè, ma perché sai, noi siamo abituati sempre ad ascoltarvi, non a parlarvi, perciò un pochino, sì. Ma questa è una notte speciale, perdonami. Quindi, quella vuol dire che tu ti accorgevi che ti stavamo cercando, ma non rispondevi. Poi a un certo punto hai detto... No, in realtà, siccome vi stavo ascoltando dal cellulare, con le cuffie, il cellulare era quasi scarico. La chiamata ovviamente interrompeva l'ascolto e quindi ti creava qualche problema. E tra l'altro mi si stava anche spegnendo, quindi ho dovuto cercare il caricabatterie nel buio, attaccarmi alla presa e allora a quel punto sono riuscita. Allora, tranquillizzaci un secondo, Cla-Cla. Sei a casa in questo momento? Sì, sono a casa. Oh, meno male, questa è già una buona notizia. Sì, in realtà vi stavo ascoltando proprio da letto, sciallatissima, e poi mi sono alzata giusto per voi, ma ne vale la pena. Sei una dolcezza. Dovevi vedere gli occhi di Max. Chiamate Rock FM 02 670. Buono Max, buono. No, ma tra l'altro qui ormai è quasi ora di alzarsi perché sta albeggiando, perciò. Ma anche quindi quasi anche noi dovremmo. Cosa farai tu domani, Cla-Cla? Domani vi ascolterò tutto il giorno, non posso venire purtroppo, però direi che il fatto che sia ancora qui ad ascoltarvi non puoi venire perché di grande amore. Dacci una buona motivazione per la quale tu non possa venire. Hai solo un'ora e mezza tra te e noi, un'ora e mezza di strada. Però non te la faccio veramente, però... Ti vengo a prendere con lo scooter, giuro. Dai, potete anche scusarmi, sono praticamente le 5, sono ancora qui che vi ascolto. Ma certo, grande affetto. Sì, dai, io gliela firmo. Ma sì, dai, va bene. Giustifica firmata. E voi come state? Noi stiamo molto bene. Sì, ci aiuta molto il vino, il grano, i tarallucci e naturalmente la forza che continuate a trasmetterci voi. E il salame? Lo vogliamo dimenticare? Il salame l'ho già digerito. Il salame ha una grossa importanza. Comunque io volevo salutare tutti e ringraziarvi perché, vabbè, insomma, non è che ci sia bisogno di aggiungere altro. Mi associo in pieno a quello che ha detto Sabrina prima, perché ha veramente ragione. Alla fine il fatto che si aggiungano tipo 50 utenti al giorno sulla Rock Family direi che di per sé è molto significativo. Questo presume il fatto che tu sia già parte della famiglia, Cla-Cla. Ovviamente sì, ma forse Max si ricorda che nelle ultime settimane ho mandato una serie di messaggi deliranti, mezze poesie, mezze, non lo so, tipo dichiarazioni di amore per la radio e via dicendo. Vabbè. Certo, mi ricordo benissimo. Ci mancherebbe, mi ricordo benissimo. In questo momento potrei citarle in memoria, ma non lo farò per non risultare troppo prolisso. Grazie comunque, Cla-Cla, per averlo fatto. Sai, Cla-Cla, che sulla Urlo Box fanno i complimenti alla tua voce, più di uno. Ah, grazie. Jake Blues fa i complimenti alla tua voce, poi ne ho visto anche un altro. È NDR Drum. Ah, ma davvero? Strano, perché pensavo di avere l'accento invece della mia città. Che di solito non è molto apprezzato. Ma neanche davvero particolarmente marcato, fatelo dire da un bel zona. No, comunque grazie per aver messo Faber, perché a metà della notte sentire lui è come, non so, un saluto a tutta Genova. Veramente è stato quasi commovente. Grazie, Cla-Cla. Tutti quanti gli abbiamo voluto bene. Anche perché Faber, con tutto il rispetto per la sua città, ovviamente, fortunatamente ha varcato parecchi confini. Così cominciamo a parlare della Sardegna, capito? Beh, un po' puntava quello, in effetti. Sentendolo da qui non potevo esimermi dallo scrivere un messaggio immediatamente. Senti, allora abbiamo la certezza che domani non sarai qui con noi, quantomeno fisicamente, rimani con noi all'ascolto. Ragazzi, sono ancora qui che vi ascolto, quindi e direi che mi ha già firmato io la giustifica. Hai ragione. Senti, Claudio, parteciperai su Rock Family? Ma certo che sì, ovviamente. Mi raccomando. Anzi, sono stata io a far partire il topic, ad esempio, di ringraziamento per il grande Faulisi, per il discorso che ha fatto. Io penso che in quel momento si siano veramente commossi tutti. Ho avuto modo di sentirlo in diretta e sulla Urlo Box era un susseguirsi di messaggi alla velocità della luce, tutta gente che si associava in pieno, che ringraziava, eccetera. Quindi io veramente, forse la cosa più importante che siete riusciti a fare voi è arrivare al cuore di tutti. Ecco. E io, carissima, ho fatto una gran fatica a dire quello che dicevo, perché era veramente qualche cosa di grosso, qualche cosa di sentito, qualche cosa di importante, e naturalmente sentivo di doverlo dire, era il momento giusto perché arrivassero quelle informazioni oltre che quei sentimenti da parte mia. Mancavano ancora delle informazioni da trasmettere. Questa è la motivazione per cui ho fatto quello che ho fatto, semplicemente. Sì, è verissimo, ma direi che è arrivato tutto. Guarda, io se posso, ho vissuto il momento veramente da esterno alla radio ed è quasi da una scena da film, come ho avuto modo di poter riferire subito a Maurizio. Ho ascoltato la sua chiusura, il suo discorso di chiusura mentre guidavo il mio scooter sotto la pioggia di Milano, e a un certo punto la pioggia si è mischiata alle mie lacrime, e questo è un gran complimento che faccio col cuore a Maurizio Falesi. Ma anche sulla Rock Family c'erano tante persone commosse, veramente. Io ho sentito anche il tuo discorso di addio, in realtà sono riuscita a sentire solo i vostri due, anche perché poi non è che riuscivo ad ascoltare proprio tutto il giorno. Io direi che, insomma, i due discorsi che ho sentito sono stati tutti e due veramente toccanti. Perdonami, ma ci viene il dubbio, ma stai parlando di Maurizio Falesi e l'altro discorso che hai sentito? Quello di Max? Ancora non l'ho fatto, clacla, ascolta ogni domani. No, l'ultimo che hai fatto. La chiusura di Max. Ne hai fatti tanti, sì, di discorsi. Io ne ho fatti forse anche troppi. Ok, perfetto. Li ho sentito. Okay. Sì, intendevo quello. Perfetto, mi fa piacere che tu l'abbia sentito. Grazie davvero. Va bene. Un bacio a tutti, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go miss Sunday mornings every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. That's okay, shake my head. And I'm not sad, and just maybe I'm too blame for all I've heard. And I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Ok, Nirvana, questo è Lithium. Continuiamo nella notte, nella 24 ore. Nirvana. Yeah, nella 24 ore continuiamo a prendere telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Oh, buongiorno anche a te. Ileana. È il primo buongiorno che ci arriva. Wow. Vabbè, ma sta nascendo il sole. È vero. E quindi dopo. E sarà una giornata di sole oggi, lo sentiamo. Anche qui a Los Angeles sta sorgendo il sole, in effetti. Benissimo. Dopo tutti questi giorni di lacrime, mischiata pioggia, come minimo dovrà sorgere il sole. Ma come buon auspicio. A chi stiamo augurando il buongiorno? Non sappiamo ancora il tuo nome. Allora, sono Milena, la cameriera di Ravenna. Oh, Buongiorno a te. Allora, vi chiamo da anche, insomma, da 100 metri dalla ruota panoramica di Mirabilandia, così capite anche più o meno la zona. Niente, vabbè, questo. Ma senti, come Milena, diceva, sei reduce da una lunga nottata o stai iniziando a lavorare? No, da una lunga nottata con voi, ho finito alla mezza, dopodiché ho cominciato ad ascoltarvi e quando ho visto che cercavate donne ho detto vabbè, proviamo. Oh, la tua sensibilità ci emoziona. Sì. Grazie, grazie. Ma senti Milena, la verità è che tu ti stai dirigendo verso la stazione dove salirai su un treno. No, tesoro, perché io domani lavorerò tantissimo e no, quindi no, così come per no, Russi ho dovuto no, masticare unghie per non poter venire, io mi sono limitata fino ad ora ad ascoltarvi per radio, morendo un po' assieme a voi per il fatto che non posso neanche condividere queste emozioni. Vabbè, allora a questo punto Elena ci giochiamo l'ultima carta, domenica sera alla Flog a Firenze? Sì, sì. No, assolutamente no! Allora Milena, dillo. Io odio con tutto il cuore. Però non ha senso. Però vi ho già invitato tramite messaggio, solo se l'avete letto, a mangiare a Milano Marittima, nei ristoranti in cui lavoro, è tutto offerto, quando volete. Questo non posso questo fare. È gran cuore. Ragazzi, scusate, il primo treno. Se volete venire a fare i fighetti a Mima, visto che lì regnano solo fighetti, quindi mettetevi il doppio petto con la cravattina rosa come il vostro amministratore delegato. Scusa, col maglioncino rosa annodato intorno al collo, vuoi dire? Si può anche fare, l'importante è la mutanda DNG, prego. Ma noi perché altrimenti sei decisamente out. Se veniamo da quelle parti, Milena, noi facciamo scattare la rissa, ovviamente. Noi ma guarda che c'è. Te lo dice una cameriera che ha i capelli fucsia, quindi. Ehi là, come ti capisco? Per le riste, come dire, in pole position, la prima. No, Milena, però questo non fa che accrescere il nostro dispiacere per il fatto che tu non sia venuta a Russi, non sia qui stasera e che non verrai domani qui, che non verrai neanche alla Flog, Milena, dai, ma perché? Perché non può, però c'è. Perché ce la paghiamo noi. Sono un'idiota. No, non dire. No, perché io, vabbè, quando io sono sul lavoro serissima, a differenza di tutto di fuori il lavoro, invece è esattamente il contrario. Anche questo è rock and roll, comunque. E quindi, vabbè, no, niente, adesso a parte le stupidaggini, volevo dire che vi ascolto da un paio d'anni, perché come dicevate prima, qui a Ravenna il segnale non c'era. E quindi nel momento stesso in cui ho deciso di andare a vivere da sola vi ho scoperto e avete fatto parte della mia vita da quando appunto abito sola, per cui mi mancherete terribilmente. E a parte questo, come dicevo con Max, se si vuol fidanzare liberissima, ci dice gli uomini ma la sua voce, quindi quando vuole ci girarsi di qua. Grazie. Anche perché è 75 pur io, quindi ho sentito che prima dicevi l'anno di nascita. È combinata, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo piazzato il Max. Il mio in effetti è il 69, Milena, però va bene. No, ma allora chi è che ha detto 75 prima? Sarà stato. Giuro. No, non lo so, io sono 75, però. No, Edo, non posso. Era Edo, però era 75. In effetti non potrebbe neanche Edo, se proprio la vogliamo dire tutta, via. Molto bene. Va bene, è andata così, saremo soltanto clienti. Milena, a questo punto saremo soltanto amici e va benissimo, ragazzi. Non posso non chiederti se sei già parte della famiglia di Rock FM, ovviamente. Rockfamily.it, sei già parte della famiglia? No, perché il computer è a sistemare, ma appena ritorna, promesso, ci sono. Wow, è arrivato un sì. È arrivato un sì. Milena, bene, tranquilli. Vai a fare un giro sulla ruota di Mirabilandia pensando a noi. Sì, allora. E poi mi butto, grazie. No. Rimaniamo no, tanti. No, solo per la disperazione di non potervi vedere dal vivo. Mi sono fatta raccontare tutti i dettagli dei concerti di Russi, però non potevo esserci. E quindi. Ma vabbè, ci sarà un'altra occasione, non temere. Appunto, ma io sono di questa opinione, per questo ho detto che oggi ci sarà il sole, perché sarà di buon auspicio, sono molto sicura. In effetti la luce promette bene, in effetti. Così come la mia paura dell'andare da sola mi faceva pensare che sarei stata sola e non avrei avuto nessuno invece di incontrato, sono convinta che tutte le cose che inizialmente fanno paura, tutte le porte che si chiudono fanno paura, però comunque c'è sempre qualcosa che si apre è molto meglio ed è nuovo, inaspettato, sempre meraviglioso. Per cui, ragazzi, in bocca al lupo, col grazie, cuore. Grazie davvero. E qualunque cosa fate vi troviamo, non vi preoccupate. Noi urleremo dove siamo, cercheremo quindi di farci trovare. Quindi non sarà difficile individuarci. Grazie. E noi apriremo le orecchie. Grazie, okay, ragazzi. Un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio. Buonanotte. Ciao, grazie. Ciao. Eh sì, alle nostre spalle il finestrone ci fa vedere una bella giornata in ragazzi, qui albeggia. Esatto. Tu volevi andare a riposare un pochino. Quando forse? Abbiamo pensato, facciamo la 24 ore, Sì, tiriamo dritto. Poi è anche vero che magari qualche momento di pausa, io personalmente ne sto pigliando almeno un paio d'ore. Sì, mi sì. Assenterò dai microfoni, ma giusto per non andare in onda, dare un po' il cambio, Vado di là a bere del vino, ovviamente. Esatto. A dopo. Ragazzi, c'è questa grappa qua, voglio dire che adesso vengo a impugnarla. Allora permettetemi di dirvi buonanotte, buona giornata, buona continuazione su Rock FM, Maurizio Falisi e Edo Rossi con voi, perché questa è l'ultima lunga notte di Rock FM e non dovete perdere neanche un secondo. Tra poco magari leggeremo un po' di sms. Sicuro. E la lunga notte è diventata ormai giorno, per quanto mi riguarda non ho avuto tante occasioni di trasmettere nella mia vita di giorno, l'ho sempre fatto di notte. Sì, è proprio così, ma anche prima di Rock FM, io ho iniziato qua 15 anni fa, prima comunque facevano trasmissioni notturne. Facevi metronotte, diciamo. Esattamente. E una delle prime è stata proprio la notte della lunga Good Rockin' Tonight, che è andata in onda fino alle 8 del mattino. Ah, attenzione. E ho visto, così come oggi, albeggiare, mi ha dato in effetti una sensazione diversa. Certo, bella, certo. Bella, davvero bella. Però tu pensa, Maurizio, che sono le 5.36... siamo quasi a metà strada, quindi voglio dire, no, ma poi secondo me è passata la notte, poi passa, voglio dire, la tra virgolette fatica. Dai, sentiamo un disco, poi eventualmente prendiamo un altro telefonato e leggiamo altre sms. Ok. We'll be right back. 5.40 del mattino, sabato 31 maggio 2008, l'anno della svolta contro il muro. Mancano 12 ore e 19 minuti e 40 secondi alla chiusura di questa emittente radiofonica. Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Buona giornata a tutti. Beh, Aria, dai, tu alla fine sei abituato ad aprire le giornate, no? Io, guarda, mi sento come a casa. Ma infatti mia. L'ho visto rivitalizzato a partire da quando sono arrivate le prime luci dell'alba. Che ci vuoi fare? Abbiamo una telefonata. Mi sembra di sì, un amico Alessandro. Sì. Pronto? Bella Alessandro, benvenuto. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Accento toscano? No, sono di Faenza. Vicino alla ragazza che ha chiamato prima. Ah, bene, magari conosce anche il ristorante dove lavora lei? Ma conosco il posto, la zona che gli ha descritto e c'è anche altra gente a Faenza e dintorni, sì, conoscete bene. La Faenza che conta, insomma. Sì, la Faenza che puzza. Cosa stavi combinando alle 5.40 del mattino? Ma cosa volete che faccia? Sono qua che v'ascolto. Cioè, buon gustaio. Uno fuma e v'ascolta, cosa fa a quest'ora? Sì, pulisce le strade. Ariele, scusa, tu sei stato uno di quelli che alle 7 di mattina, penso che tu e Frick riuscire a svegliare la gente in quel modo, perché lo sapete anche voi meglio di me che le 7 di mattina sono sempre le 7 di mattina per tutti. Le 7 della mattina sono una palla. E quindi trovare te con la tua flemma, la tua il tuo modo di parlare. Ora, carissimo amico, ti risponderò così. È flemmatico. E poi volevo dire un'altra cosa, ragazzi. Io ho avuto la fortuna di vedere la vostra radio. Sono venuto a trovarvi il giorno che siete andati a registrare quell'intervista televisiva, c'era solamente Claudia. Sentire la radio da fuori e vedere poi questi posti, cioè non sporchi, nel senso questi muri sporchi. Erano bianchi con queste manate dappertutto. È un'emozione grandissima. E sono studi vissuti alla fine. Sì, piccolini, qualcosa che proprio. Certo, una mano di bianco, quello con la cravatta rosa poteva darlo. Scusami, io ho detto questo per dare. Hai ragione, fa cagare, stanno in piedi con gli stecchini, non è che. No, ma è ovvio che se tu avessi trovato qualcosa di asettico e di tutto formica, magari te ne tornavi a casa del Esatto. No, esatto. E anche più rock. Poi c'era anche Claudia che con le sue rughe stava benissimo. Esatto, infatti. Tra l'altro volevo dire che avete bevuto il vino che l'ho portato. Guarda, sicuramente sì. Abbiamo finito tutto, quindi. No, grandi ragazzi, anch'io è poco più di 2 anni che posso ascoltare. Io non ho la televisione per scelta di vita. Però adesso... Vivere con la radio è stato bello, è stato veramente bello. Ho anche il lusso di poter avere la vostra musica dove lavoro, in campagna. Ancora per 12 ore poi. Allora mi viene duro. Ti ho potuto ascoltare. Grazie della testimonianza dalla Faenza che conta. Ci vediamo presto. Sì. Un abbraccione. Ciao. 0267 09. Ma la domanda 132. Ariele, dimmi caro. Ma tutti vengono svegliati dal Frick e dalla Ariele. Aspetta, no, no, ci siamo messi lì. No, infatti. Ma tutti vengono svegliati dal Frick e dalla Ariele. Sì. Ma questi due, chi li sveglia? Oh. Benvenuti su Rock FM. Fino alle 18. On air. Yeah. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sitting at the dock of the bay, watching the tide roll it away. Set it on the dock of the bay, waste the time. Afroci. Ariel su Otis Redding. Inizia lentamente a arrivare la luce del giorno, ma gli amici e le amiche alla chitarra continuano a contattarci. Gemma da Milano, buona giornata anche a te. Ehi Gemma. Ciao a tutti. Ciao. Che FM. Ho detto chi chiamava, allora ho detto adesso due ore che sono passate, quindi si parla. Brava Gemma. Ciao. Ben svegliata. Ma chi mai... svegliata? Ancora sveglia dalle 9 di stasera, sono morta, però ho fatto la doccia. Allora quanti caffè? Doccia fredda. Ok. Noi la doccia non l'abbiamo ancora fatta, no. E si sente. Già, ma voi ci credete che io sono più di 24 ore che non prendo un caffè? Aia, ne vuoi uno? Allora sei un santo o un genio? No, ma è così un po' per tutti, credo. Anzi, qualcuno via SMS poco fa aveva proposto di portare delle brioche. Vista la luce, potrebbe essere giunto il momento. Esatto, no, ma perché tra l'altro ieri, non stando tanto bene, ho deciso di non prendere caffè per non irritare il volo, non hai capito? E quindi non ho caffeina, quindi sto andando avanti solo con la potenza del rock and roll. Non telefonate al 335-100-7777, per piacere si inchioda il lettore SMS. Ma Gemma è già venuta in onda prima? O No. Il numero di telefono da chiamare 02670 9132? No. 09132. Eccola lì, grande. No, perché siccome ero occupato l'ho rifatto un po' di volte. Quindi l'ho memorizzato. Io ormai di memorizzato non ho più niente, ma la pena il mio nome. Tu ci sarai? Ma io penso proprio di sì, adesso magari mi prendo due ore di nanna perché sennò crepo, però sicuramente, tanto sono di Milano, insomma, è un po' una cosa d'obbligo volendo, no? Anche per chi non potrà venire. Un dovere morale. Questo sbadiglio era di perché mentre noi si parlava di doveri morali, lui sbadigliava. Esatto. Ma più che dovere è un dovere di allora, diciamo, di cuore, ecco, più cuore che morale. Certo, assolutamente. Insomma, cioè, guardate. No, ma entrambi direi. Entrambi, ok. Gemma, senti un po', sì. È l'alba di una nuova giornata, l'inizio di una nuova sfida. Lasciaci due parole. Ma io direi che, cioè, le prime due che ti vengono in mente. Però dico, secondo me, spero veramente che sia un qualcosa di non definitivo e sono veramente, cioè io adesso vi ascolto da un 3-4 anni, nel senso che a singhiozzo perché vado all'università a Torino, però veramente mi avete fatto una compagnia che non vi dico e insomma, cioè, ma penso che ormai tutti l'avrete capito, quello che anche le ragazze che hanno chiamato prima, insomma, sarà una mancanza niente male, ma si spera in un rincontro il prima possibile. E questo insomma, è vogliamo sicuro, tanto bene. Anche noi. Gemma, buona giornata. Ripetiti e ci vediamo tra poco. A ok, dopo, va bene, ciao. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Oh Lord, won't you buy me a new rock cafe? E allora, visto che Paulisi mi ha provocato dolce, io mamma mia, così, tocca a te. Il mood è questo. Facciamo la garetta. Dai, allora vengo a trovarti con un altro disco, E finché ce le abbiamo le frequenze le usiamo al meglio, questo stavi dicendo? Sì, sì, le stringiamo, le esprimiamo. Le abbracciamo forte. Dennis Joplin con Summertime. Il DJ Ariele, dicono via SMS, un cialtrone che più simpatico e finto stordito non si può. Il finto, l'avrei sottolineato. Caro Maurizio, ho un amico da presentarti. Si chiama Simone e ci contatta da Firenze. Bene. Sì. Buona giornata Simone. Buongiorno. Simone. Ci sei anche tu Simone? Sì, benissimo. Infatti ci chiedevamo, ma ci sarà Simone? Ci sono. Vai Simone. Da due annetti ininterrottamente. Porca miseria. Grandi, siete grandi. Anche tu. E io mi volevo unire a tutti quelli che sentendo di giovedì, insomma, si sono emozionati, sono commossi, perché è stato, cioè, quello che hai detto è veramente toccante, e è stato anche vero, perché comunque è vero che c'è qualcuno che decide per tutti, e comunque noi siamo un pugno di stronzi perché non abbiamo nessuna reazione molte volte. Forse pure quello di parlare con voi in questo momento, anche se già ci ho detto tutto, cioè volendo pure, non è inutile, però non serve, non so come dire, perché è poco rispetto a quello che uno dovrebbe incazzarsi, diciamo. Ecco. Quindi non ho capito, proponi maggiore rabbia? Sì, no, ma qualcosa di, cioè, maggiore rabbia che sia, tipo, non so, barricate? Non lo so, perché troppe cose ci vengono levate senza che si leva nessuno. Guarda, ogni reazione credo che sia assolutamente comprensibile, ovviamente entro quelli che sono il, come dire? Non sto cercando di tenere buoni gli animi, per l'amor del cielo. La rabbia che abbiamo provato noi è indescrivibile. L'avete trasmesso benissimo, e comunque tutti quanti ci sentiamo insieme a voi in questo senso, perché certo. Comunque, cioè, più che una radio che fa compagnia, più una cosa che accendi come sottofondo, sembra proprio di parlare con voi quando uno vi ascolta, è una cosa stranissima. Caro Simone, una volta senti una canzone e dopo 5 minuti la senti, più di una volta sembra che, insomma, che la battuta che fate voi non lo so, è in sintonia con quello che stai pensando tu. È una cosa che non si trova con nessun'altra cosa, non lo so come dire. Grazie, cioè, Simone. È l'unica radio che ha questa passione, questo. E allora vedi, io Simone sarò alla Flog, perché c'è. Siete le uniche persone che penso di voler bene senza aver mai visto di persona. Simone, la cosa importante è che tu non ti dimentichi quello che ci hai detto. Ricordatelo che cos'era questa cosa qua e raccontalo in giro. Tutti quelli che capitano nel raggio di 50 centimetri da me, di un metro da me, di un metro da me, in questi due mesi, sanno che sono, cioè, dispiaciuto, perché tra poco non vi ascolto più per radio. Al lavoro da me ho coinvolto tutti quanti, anche quelli che non sopportano il rock, il metal, sono stati costretti, diciamo, ad ascoltarmi in questi giorni. E comunque sì, anche loro hanno capito che è una cosa, cioè, importante quella che fa, che è al di fuori di qualunque altro schema a cui siamo abituati. Ho parlato troppo, Simone, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao. Yeah. Attenzione, tocca al Faulesi. Questa è mia. Buona giornata. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The color colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. Much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Nonostante tutto, sì. E l'alba, Maurizio Faulisi e l'Ariele, come meglio possono, cercano di rendervi felici questo momento, mentre nelle altre stanze dormono come degli angioletti i nostri colleghi buttati per terra, perché così deve essere. E una canzone come quella che abbiamo tra l'altro ascoltato qualche ora fa nella versione punk di Johnny Ramone, invece nella versione di Louis Armstrong, va troppo facilmente a toccare quelle che sono le corde dell'emotività, e in un momento come questo, il nostro momento, questa radio che chiude, davvero troppo facile. E a questo punto che dici? Ma guarda, in realtà gli amici da casa ci tengono a salutarci. Ci sarebbe Claudio da Forlì. Buona Claudio. Giornata Claudio. Ciao ragazzi, complimenti per tutto. Grazie, complimenti a te. Esatto, complimenti a te che hai scelto noi. Io avevo pensato a una cosa, a una specie di rappresaglia del mio condominio per la chiusura di Rockefeller. E cosa c'entra? A livello di condominio? Questa no, questa è bella. A livello di condominio, perché in tutti questi anni hanno ascoltato quasi più musica il mio condominio di me. Perché Ma perché tenevi il volume alto? Sì, un po' troppo alto. Cioè sì, all'inizio rompevi le palle e poi si sono abituati? Sì, ci piace. Fantastico. Questa è un'idea che avremmo dovuto lanciare anche agli altri. Dicevi, scusami. Avevo pensato di mettere lo stereo alla finestra e propagare a volume più alto possibile le vostre bellissime. Claudio, mi sembra un'ottima idea. Visto che sono le 6, magari aspettiamo le 9. Ti va? No, vorresti farlo adesso? Oppure, Claudio, fallo tu e poi ci chiami fra un po' e ci dici qual è il risultato. E vediamo e se. E vediamo se consigliarlo anche agli altri. Sì, io volevo dire. Mi ricordo quando ho scoperto Rock FM, che sarà stato 6-7 anni fa. Perché prima non si vedeva la frequenza. Allora io torno a casa da lavorare, faccio il muratore, l'ho distrutto, stacco la radio, in autoradio sento questa musica della Madonna, mi sembra che ci fosse le Twister Sister. Questo le palle. E allora dico, Madonna che storia la radio, Twister Sister, bella storia. Dopo un po' sento che parlava Elio, parlava. Uno che con le palle. Rock FM. Rock FM.